in primo piano. Buongiorno, buon sabato, buon ultimo sabato di luglio da Giulia Crivelli. E oggi abbiamo una mezz'oretta circa per guardare le prime pagine dei giornali e qualcosa di curioso all'interno. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che ha un titolo molto economico. Questa è stata la settimana del riassetto ai vertici di TIM e di Telecom, ma dietro c'è anche, anche dietro alla liquidazione, al virgolette licenziamento dell'amministratore delegato Fabio Cattaneo e alla sua multimilionaria liquidazione, c'è anche il grande nodo del controllo della rete. E quindi il titolo del Sole 24 Ore, perché questa è anche, altro riferimento alla cronaca della settimana, una delle partite attuali tra Italia e Francia, perché sapete che Telecom in realtà e TIM sono controllate da Vivendi, che a sua volta è controllata dal finanziere Bolloré, che è un francese, un bretone. Quindi il titolo: rete TIM, il nodo del controllo. Sempre in prima pagina, subito sotto il titolo sulla TIM, un titolo che raggruppa quello che è successo, raggruppa i dati economici di ieri dall'America, riparte la crescita americana. È comunque importantissimo per tutti, l'America e gli Stati Uniti sono ancora un po' sempre testa a testa con la Cina come prima economia del mondo, sono il terzo paese più popoloso al mondo, anche se ho sentito qualche giorno fa che nel 2020 la Nigeria supererà l'America come numero di abitanti, ma è sempre importantissimo vedere che cosa succede nell'economia americana, che resta un po' il punto di riferimento del mondo. E da qui appunto la notizia sul dato del secondo trimestre: il prodotto interno lordo è cresciuto del 2,6%, che comunque è una buona crescita rispetto per esempio a quella dell'Europa, però i salari sono rimasti deboli, quindi non crescono i salari negli Stati Uniti, anche se scende il tasso di disoccupazione. Questo è un dato delle scorse settimane, e da qui le borse europee non hanno reagito bene ed è sceso anche il dollaro. Poi dalla prima pagina del Sole vi segnalo un articolo che poi trovate a pagina 11, è di Silvia Pieraccini, che è la corrispondente del Sole 24 Ore dalla Toscana, che racconta il nuovo welfare aziendale di Gucci. Gucci è uno storico marchio italiano, è nato, pensate, quasi 100 anni fa a Firenze, nel 1921, negli anni poi è passato di proprietà, in questo momento è parte del gruppo francese Kering, ma è di fatto un'azienda che ha tutta la sua operatività in Italia e siccome sta andando molto bene, i conti sono stati pubblicati 2 giorni fa e mostrano delle crescite impressionanti, le più alte in questo momento del mondo del lusso, per una volta si potrebbe dire al successo dell'azienda dal successo dell'azienda hanno veramente dei vantaggi anche i dipendenti. Arriva infatti questo maggiordomo aziendale, che è una persona alla quale i dipendenti possono rivolgersi per pagare le bollette, ritirare i vestiti in lavanderia, ma in realtà fa parte appunto di queste politiche di welfare aziendale. In Gucci si potrà arrivare nel 2017 a welfare aziendale per 1.800 euro per dipendente. Trovate poi l'articolo richiamato in prima pagina, ma lo trovate poi a pagina 11. Come ogni sabato in edicola con il Sole 24 Ore Plus 24, il settimanale dedicato alla finanza e al risparmio, la copertina si intitola Trova il tuo arbitro, cioè il tema è come risolvere le controversie con gli intermediari, che naturalmente sono sempre più frequenti. Il Corriere della Sera sceglie di concentrarsi sulla vicenda dell'ATAC di Roma, perché Bruno Rota, che è stato anche amministratore unico dell'ATM qui a Milano, dove ha fatto un buon lavoro, era stato poi chiamato a Roma per cercare di mettere ordine anche nell'azienda dei trasporti di Roma, se n'è andato. Virginia Raggi ha dichiarato: gli ho ritirato le deleghe, e lui, che nei giorni scorsi non aveva fatto grandi dichiarazioni, si è sentito di precisare: io mi ero già dimesso, ho visto strane manovre. Tutta la cronaca all'interno, del resto un po' l'avete sentita anche nei GR. ha fatto notizia dedicata alla vicenda orribile di ieri dell'assedio, perché di questo si è trattato, ai parlamentari davanti alla Camera, dove alla Camera dei Deputati si votava per il decreto sulla vaccinazione obbligatoria, 10 vaccini anziché 12 alla fine. C'è stato questo voto. Potrei parlare per ore di questa vicenda, la mia posizione credo sia abbastanza chiara fin da come appunto ho annunciato la vicenda, ma al di là del merito, cioè di criticare delle evidenze scientifiche quando scienziati non si è, la cosa impressionante è questa piega violenta che sta prendendo la protesta. E da qui appunto gli articoli e la fotonotizia del Corriere della Sera. La Repubblica titola su Roma, ma con un taglio un pochino diverso. Certo, c'è anche il riferimento all'allontanamento di Rota, ma il titolo è Raggi, scontro nel Movimento 5 Stelle, così Roma va in tilt. Vi leggo la maca di Michele Serra, perché è proprio sulla questione dei vaccini e di chi contesta questo decreto, i cosiddetti Novax, che poi a volte non vogliono essere chiamati Novax. Scrive Michele Serra: se i fanatici ci fanno così paura, non è tanto perché sono violenti. Contro la violenza, per fortuna, ci sono anticorpi sociali e individuali. Le leggi, la Digos, l'autodifesa attiva organizzata, i corsi di karate a scopo difensivo. Se i fanatici ci fanno così paura, è perché sono fanatici. Ovvero testimoni della tremenda permeabilità del cervello umano all'irragionevolezza, all'ignoranza, in ultima analisi alla stupidità. E contro la stupidità, spesso, ci si sente del tutto impotenti. Vedendo e sentendo i capannelli di Novax urlanti e smanaccianti attorno a Montecitorio, si prova totale desolazione. Non è l'ideologia politica, non è il fanatismo religioso, è una specie di fissazione isterica a trasformare nostri concittadini in energumeni ed energumene, tante, disposti a tutto tranne che a concedere alle statistiche, ai numeri, ai laboratori, alla ricerca scientifica e infine alla democrazia un minimo di credibilità. Loro sanno tutto, gli altri niente. Questo è il codice del fanatico, e il timor panico che ci prende vedendoli sbraitare scemenze e alzare le mani è che nessun cervello umano, neppure il nostro, sia immune da una così umiliante deriva. La Stampa a sua volta pubblica una fotonotizia, una foto, e quindi la fotonotizia scattata ieri durante questa manifestazione. E il titolo principale però è dedicato a Macron, questa volta alle mosse non su Fincantieri, non sulla Libia, ma sulle frontiere francesi, che secondo Macron devono essere chiuse agli immigrati. E su questo ci sarebbe addirittura già un piano con la cancelliera Angela Merkel per riscrivere le regole di Schengen, che sapete sono quel regolamento dell'Unione Europea che stabilisce la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea. L'Avvenire dedica la fotonotizia alla morte di Charlie, Charlie Gard, il bambino al quale è stato staccato il respiratore, soprattutto perché le sue condizioni a questo punto erano talmente peggiorate da rendere veramente inutile qualsiasi speranza di miglioramento e men che meno di salvarlo. C'è naturalmente molto dibattito su questa questione, vedremo anche alcuni titoli molto forti di altri giornali. È intervenuto anche il Papa su questo e ha semplicemente detto è nelle braccia di Dio, come ci si aspetterebbe naturalmente dal capo della Chiesa Cattolica. Ma vi segnalo dalla prima pagina di Avvenire un editoriale bellissimo di Vittorio Sironi ancora sulla questione dei vaccini, anche qui spiegata con una razionalità e un equilibrio invidiabile. E poi vi segnalo oggi anche la rubrica di Andrea Predrinelli sull'Avvenire, si chiama Fatti Bella per te, e sottolinea quanto sia bello, questa è la parola, il testo di questa canzone di Paola Turci, che tra l'altro affronta il tema dell'immagine che le donne hanno di sé e a volte della dipendenza che noi donne abbiamo dal giudizio estetico che gli altri hanno. E in questa canzone, che veramente ha un testo bellissimo, che tra l'altro l'autrice Paola Turci, sapete, ha avuto dopo un incidente stradale, ha delle cicatrici in faccia ed è anche con queste che lei ha dovuto a che fare, ma appunto a volte una canzone, io sono convintissima di questo, una canzone può fare molto, molto più magari di opinioni, di discussioni. Il Messaggero titola, come ci si può immaginare, sulla vicenda dell'ATAC, addirittura un virgolettato dell'ex direttore generale Rota che avverte, e questo è una cosa che non, gli altri giornali non hanno sottolineato con tanta enfasi, lascio l'ATAC, non pagherà gli stipendi. Dice che ormai l'azienda è insolvente, quindi sarà insolvente anche verso i suoi dipendenti. Libero, Silvio, occhio agli amici, è un lungo articolo di Vittorio Feltri che vede nell'ennesima, potremmo dire, resurrezione politica, se non altro di Silvio Berlusconi, anche il fatto che si è liberato dall'ultimissimo cerchio magico, per così dire, della sua storia politica, che era quello composto soprattutto da esponenti donne di Forza Italia. Ma l'articolo di Feltri ripercorre anche le vicende di altri politici che si sono circondati di apparenti amici, consiglieri, che poi forse erano solo yes men, che quindi fanno più male che bene. Il Fatto Quotidiano titola sulla questione della Libia, Gentiloni scatena la flottina, e c'è poi un'intervista a Emma Bonino che dice: intese di questo tipo in un paese dove come la Libia, dove è ancora difficile avere un interlocutore, sono morte in poche ore. La Verità, vi dicevo, titoli forti, c'è una foto di Charlie Gard, il titolo del pezzo che poi trovate a pagina 12 di Ignazio Mangrano è Ucciso, i medici hanno staccato la spina al bimbo inglese. Io lo ricordo solo così en passant, i danni cerebrali che la malattia che questo bambino aveva congenita erano gravissimi fin dai suoi primi giorni di vita, quindi questo ricordiamocelo sempre, perché siccome si parla di eutanasia di Stato, si usano altri termini forti, questo era il dato di fatto medico, per quanto freddo, però ricordiamocelo, appunto era un bambino che anche se fosse sopravvissuto aveva già dei danni cerebrali gravissimi, irreparabili e irreversibili. Ci lasciamo un attimo per le informazioni sul traffico. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta In Primo Piano. Buongiorno, ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali. Grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi o WhatsApp al 349-238-6666. Vi ricordo anche il mio account Twitter, che è @ Giulia_Crivelli. E all'ascoltatore, inevitabilmente sulla questione dei vaccini ci sono sempre molte polemiche, che dice: perché non parlate delle case farmaceutiche che li producono? Anche qui ricordo, per inciso, poi si potrebbe parlare per ore di questa questione, che non è con i vaccini che le case farmaceutiche guadagnano questi grandi soldi. Io non più che alla sicuramente all'evidenza che le case farmaceutiche hanno un interesse nella vendita dei vaccini, guarderei ai dati sulla crescita della diffusione, per esempio, del morbillo. Quelli sono dati certi, senza citare poi i casi dove addirittura diventa mortale il morbillo, ma comunque l'aumento del morbillo c'è in Italia ed è anomalo. Quindi non so, non basterebbe questo per far capire che è necessario vaccinarsi. Le prime pagine prima di dare un'occhiata anche a quelle interne, il Manifesto all'arrembaggio, e il titolo è su questa decisione che si sta profilando un po'. Erano stati per la settimana scorsa possibilità di intervenire proprio militarmente erano state lanciate dall'Est Europa e dalla Polonia, poi è arrivato Macron, adesso si delinea quello che abbiamo visto Emma Bonino per esempio definisce un'intesa inutile, si delinea comunque un intervento anche italiano di una missione militare proprio per bloccare i trafficanti di uomini quando partono, cioè il più possibile vicini alle coste libiche. Il Manifesto è l'unico giornale che mette in prima pagina la questione del Venezuela, perché domani in Venezuela si vota per eleggere l'assemblea costituente voluta dal presidente Maduro per blindare le misure sociali. In Venezuela, sapete, è in corso di fatto una sorta di guerra civile silenziosa, il paese è in profondissima crisi economica e quindi anche sociale. E adesso il presidente Maduro vuole più poteri, si spera per usarli bene, cioè per cercare di uscire appunto da questa crisi. Il giornale: Libia, partono i soldati, via libera del governo all'intervento delle navi della Marina. E una fotonotizia anche in questo caso è questo bambino Charlie. Ciao piccolo grande Charlie, ci ha insegnato a lottare. Poi trovate l'articolo a pagina 16. Sulle prime pagine di molti giornali c'è anche l'inizio di ricordi molto ampli che trovate nelle pagine culturali a Enzo Bettiza, che è morto a 90 anni, fu un grandissimo giornalista, scrittore, lavorò per tantissimi giornali italiani, l'ultimo in ordine di tempo il Corriere, e tutti lo ricordano anche magari ripubblicando alcuni suoi articoli. Ma dicevo, poco tempo, pochi minuti, ma diamo un'occhiata alle pagine interne dei giornali. Il Sole 24 Ore, nelle pagine di commenti e inchieste, ha un lungo articolo di Marzio Barzoloni che torna su un tema triste per il nostro paese, che è quello della scarsa ricerca. E ci sono tra l'altro degli obiettivi che l'Italia si è data in questo piano Horizon 2020, ma siamo naturalmente indietro, e la ricerca naturalmente è importantissima sia per il pubblico che il privato. Un altro articolo, direi anche coraggioso, a pagina 8 è di Carlo Carboni, che torna su un altro tema. Mi spiace che oggi siano due modi negativi, pessimistici di vedere il nostro paese, ma dei problemi bisogna parlare e non nasconderli sotto il tappeto, che è quello del capitalismo relazionale. L'Italia che resiste alle clientele. Dietro i barlumi di ripresa c'è appunto questa lotta al capitalismo relazionale. Vi segnalo, perché parliamo sempre di petrolio, magari legandolo al fatto che, per esempio, anche quando cala non automaticamente cala il prezzo della benzina. Guardiamo allora che cosa è successo veramente al petrolio ieri. È stata la miglior settimana dell'anno, un rialzo del 9%. Le scorte sono in netto calo, e ci racconta Sisi Bellomo, che è l'esperta di materie prime del Sole 24 Ore, ci potrebbe essere imminente un incontro dell'OPEC. Vi dicevo, solo questo vi cito, ma perché mi ha veramente colpita, queste due interviste fatte ieri alla manifestazione. Una di chi protestava contro il fatto che alla Camera dei Deputati si stesse approvando il decreto per la vaccinazione obbligatoria. Da una parte Elisa Mariano, che è una delle deputata del Partito Democratico picchiata dai dimostranti, e dall'altra uno dei dimostranti, che si chiama David Gramiccioli, è promotore del Movimento per i Vaccini Liberi. Attenzione, è laureato in scienze politiche ed è anche giornalista, ahimè, è anche autore teatrale. E alla domanda: l'Italia è in emergenza all'allarme dell'OMS e richiami degli altri paesi? Risposta, ricordatevi quello che scriveva Michele Serra, tutte fandonie. Il decreto è stato fatto d'urgenza, ma per il premier Gentiloni ha sempre detto che non c'era nessuna fretta e che non c'è nessuna reale emergenza nel nostro paese. Tant'è vero che poi sono stati cambiati anche i criteri che sembravano assoluti. È stato tolto addirittura dagli obbligatori il vaccino per la meningite, mentre in Toscana si parlava proprio di emergenza meningite. Ecco, questo in effetti potrebbe essere un buon argomento, però perché tutte fandonie? Perché che interesse avrebbe l'OMS a dare dei dati finti? E poi ancora gli chiede Valentina Santarpia: ma non crede che il suo movimento possa raccogliere tutti i malpancisti, quelli che non vedono l'ora di dire no a prescindere? Risposta: no, penso che tra di noi ci siano persone informate. Attenzione, la scienza non vive di certezze, ma di legittimi e ragionevoli dubbi, disse il laureato in scienze politiche. Pur di manifestarli, siamo pronti a bloccare le scuole. Vabbè. Vi segnalo una bella storia, a pagina 21 la racconta Virginia Piccolillo, viene da Amatrice. Noi a tavola insieme, Amatrice riparte da qui. Oggi alle 18 ci sarà l'inaugurazione dell'area food realizzata nel borgo devastato dal terremoto con i fondi raccolti, è stata una delle tante raccolte fondi per aiutare la ricostruzione nell'Italia centrale dopo i terremoti dell'estate scorsa, appunto questa raccolta fondi fatta insieme dal Corriere della Sera e il TG La 7, questo è un primo risultato. Vi segnalo invece dalla Repubblica un bell'articolo, un incontro di Francesco Merlo, che so che insomma alcuni ascoltatori non sono d'accordo, ma io lo trovo sempre piacevolissimo da leggere, per come scrive e per quello che scrive. E ha incontrato Renzo Piano nel porto di Genova, a Genova lo ha incontrato. Renzo Piano sta lavorando un po' alla ridefinizione di Genova, che è la sua città natale. Genova è leggera come navi che volano, il suo destino è disegnato sull'acqua, e al centro c'è uno di quei disegni che un po' abbiamo imparato a conoscere, con il tratto di Renzo Piano, perché pur essendo naturalmente un architetto che insieme al suo studio fa affidamento moltissimo sui computer, tutto parte sempre da un disegno. Dalla Repubblica ancora, questa è una questione che non so, è quasi un po' una mia ossessione, quello dell'antisemitismo. Penso sempre a quello che diceva lo scrittore polacco Stanisław Lech, che diceva: alcol e antisemitismo non possono convivere nello stesso corpo umano. Se introducete il primo, cioè l'alcol, uscirà il secondo. Perché cito questo aforisma? Perché in Germania c'è uno dei best seller, è un libro negazionista, cioè che nega l'Olocausto sostanzialmente. Il direttore di Spiegel, Klaus Brinkbäumer, l'ha tolto dalla classifica che pubblicano dei libri più famosi ed è più venduti, ed è subito polemica. Il best seller negazionista che divide la Germania, pagina 42-43 della Repubblica. Una bellissima storia ce la racconta Francesca Pace a pagina 35 della Stampa. È l'intervista, la cosiddetta intervista del sabato, è a Yaqub Shaen, che è un vincitore del talent Arab Idol, è un cristiano palestinese, e dice: la musica abbatte tutti i muri, è il mio messaggio made in Betlemme. Sulla questione Charlie, ultimissima segnalazione di oggi, a pagina 13 del Messaggero, un'intervista a William Raffaeli, un anestesista, che dice: attenzione, perché non si parla mai di come Charlie abbia sofferto. Era un bambino così piccolo che sicuramente non poteva parlare, ma dice questo anestesista esperto di terapia del dolore: il piccolo potrebbe aver sofferto molto, ma nessuno ha parlato del suo dolore. Chi ha una mano sente il male come un adulto. L'eredità di questa storia è una grande sconfitta. Era l'ultima segnalazione per oggi. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Grazie Andrea Roccabella in regia. Appuntamento a domani verso le 7:15.